4C. Ascolta e rispondi. Mi scusi, potrei entrare? Prego, entri pure. Mi perdoni, potrei restare ancora? Prego, resti pure. Chiedo scusa, potrei ordinare ora? Prego, ordini pure. Vorrei guardare la televisione. Va bene, la guardi pure. Vorrei ascoltare la radio. Va bene, la ascolti pure. Vorrei invitare la signorina alla festa. Va bene, la inviti pure.